Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a Giovanni Marri per la regia e grazie a tutti voi per la cortese attenzione. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.